Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto, cambio. Un milione e tre mi sembrava pagato. No, mica era liquido. Carta un liquido, PC gaming, AMD 3009 per 12 core, RTX, RTX 2080 Super SSD 1 TB, 32 GB DDR4. 2790 euro. Cioè era praticamente a liquido, è allucinante. Il raffreddamento, ma quello lì è per gaming, è per giocare quello lì, e ha bisogno di potenza, è per quello che costa così. Sì, un gaming, sì sì. Allora quello lì è raffreddato a liquido, c'ha la pompa per il processore. Ha giù un peso, manca 3.000 euro, cioè. Il primo Pentium 100, tutti avevano il 486, me lo ricordo ancora, e io avevo il primo Pentium 100 a Sassari e me lo usavo per il packet. Oggi questa faccia un problema, ogni tanto si blocca, proprio si blocca, non ha nessun, rimane acceso, non si muove più il mouse, bloccato, proprio lo specchio lo riaccende e riparte, chissà cosa va, eppure la parte della preparazione l'ho cambiata. Non so cosa gli ha preso, se ne stanno già a rompere le balle, infatti io già me ne acquisto un'altra adesso. Che non sia la ventola che si blocca, mi, del processore. No, Natalia, ci sente la ventola, la ventola viaggia con una bellezza, tutta lubrificata. Io lo svuoto ogni tanto tempo, pulisco la ventola, la lubrifico, sotto la pasta tecnica se è buona, e poi lo rimpiazzo, lo svuoto spesso, Io no, che è un casino a Ciammara, a Bassa Termica e tutto, si vede come ti è fatto, mamma mia, io non ne docco. Perché? Ma cosa che PC è? È uno che l'avevo preso da Ricomputer, da internet l'avevo preso. E quindi c'è da fare del raffreddamento del processore, che è tutto diverso, non ne avevo mai visto così. Ho capito. Non lo so, sicuramente, vabbè, già si può smontare e pulire, no? Non si può, per forza. Perché una volta che si secca poi bisogna cambiarla. Lo so, mi è arrivato già con questo Windows 10, già ho la pennina autoavviante di Windows 7 e di Windows 10, che ci sono tutte le versioni, capito? Ho capito. Non c'è bisogno né di CD né di nulla, si pone la benina e tu ti gargheggia la situazione. Ce l'ho anche io Windows 10, però l'ho messo, pensavo che mi si era bloccato. C'è Windows 10, ce l'ho io, però se lo avvio, cioè si clicco sopra e vado su setup, no? Installa, perché l'ho già installato, però fatelo nel disco, non lo fa installare, Se lo fai installare. Cioè ci manca il boot. Ma io mi ho fatto una pennina col boot per farlo andare. La pennina non è che tu lo metti nella pennina e funziona, no? Deve essere autoavviante. Gli dici di partire da USB e va. Sì, l'ho provato, non va. Non lo so. Invece se clicco su setup, per esempio io ho Windows 7, no? Clicco su setup e me lo installa. Così. Perché il comando glielo sta dando tu. Ma c'è il tuo automatico. Beh sì, anche Windows 7 è così. Però la pennina, devi farti la pennina autoavviante. Il comando glielo dà la pennina di installarlo. Se no non varrà nulla. Ho capito. Deve essere autoinstallante, sennò non va bene. Io l'ho messo nel CD, come ti ho detto, nel DVD riscrivibile anche. Adesso non so se vuole, ma no. Perché l'ho passato dal computer al DVD. L'ho copiato e l'ho incollato dentro. Ci ha messo un bel po', l'ho messo solo dentro. Non lo so. Perché nel DVD ci vuole l'immagine del sistema operativo, se no non funziona. Ho capito. Non lo so, ci ho un grande dato, l'ho copiato, l'ho messo l'appennina, poi l'appennina l'ho passato al computer. Quando tu fai nel setup, devi dire parti da USB, e una volta che gli dai quel comando, fa tutto lui. Ripeto, se lo faccio come ti ho detto funziona, cioè praticamente sovrascrivi al computer, perché non l'ho messo nell'altro computer quando si riesce, quello che ho venduto. Gianni, ma cosa Gianni? Sta frusci, Tonino, ma ci segnali, va vedi? Addirittura, aspetta che passo qua. Come la radio? Questo lì, insomma, così è. È strano, sto usando sto cazzo di internet più tre darpi da tavolo. Non è molto spinta come radio. Confermi Natali. Comunque. A Natali lo sto dicendo, lo confermi Natali che non è uno spingere. E vuol dire che non si adatta a quell'apparecchio. Capito, bisogna vedere che apparecchio è. Per esempio io quando stavo in campagna avevo un Saturneco, lo sai qual era il miglior microfono che ho abbinato al Saturneco? Lo Shure. Chissu era un demonio, perché c'avevo il Turner più 2, il Turner più 3, c'avevo, ne avevo microfoni, l'MB più 4, beh il migliore era lo Shure. No, il Turner più 3 da tavolo l'ho avuto su Galaxy Saturneco, era una bomba, sposava bene. Lo so, ma migliore del Turner più 3, che ce l'avevo anch'io, era lo Shure, non parlava di più del Turner più 3, era una bomba. Adesso non è più di quegli apparecchi, perché abito da un'altra parte, già lo sai, e c'ho questo monogatto, e di chi tu mi devo accontentare? Vabbè, sto usando un faccio 8030, cosa vuoi di più? Anche troppo. Vabbè, già sta essendo 5 di radio e non è che è brutta, no? E a te come ti arriva la tariffa? Mi arrivi bene qua, no? Non c'è problema. La radio è 5, è bella. Non è potente potente, però è 5, abbondante, dai, anda bene. Io ti ricevo chiaro chiaro qua. Luca! Via, dai, che è il resto, lo consegnare al computer più tardi. Sempre amplificato sei tu, sì, il microfono è chiuso, sempre amplificato. A 4, anzi a 3. No, adesso è a 2. Che microfono hai tu? MB più 4. MB più, della cosa? Del tarde? No, MB più 4 la ZG. Ah, poppa così ho preso. È modificato. E la modifica la so io, cava cava. Quelli lì. Ah, a proposito, mi devi procurare quella capsula a me, Luca, per modificare quello nuovo. Ho detto che ce l'ho, una mi è rimasta. Cava cava, così lo facciamo anche quello. Io ho già fatto la modifica, solo la capsula manca e il cotone dentro. Capito. Aggiugavit. Quando vuoi, pane diretta la bit. Dai, oh, con X da parte mia, ci sentiamo, state bene, ciao ciao. Ciao. Ciao ciao Tony. Oh signor. Cava cava. Comunque quello pompa un bel microfono. Quale? Questo? No, andiamo qua, va. La batteria è... c'è per quella viga, c'è una batteria nuova, Cara cara. Si intende pure quando... quando il chicce si intende... lo so. Il mio fa così lo stesso, tac, fa il mio. E fa anche il mio così. Io non l'ho mai sentito, quindi non lo so se fa tac. E tu fa cavagaba. Così fa, cavagaba. E tutti lo fanno, dai, più o meno. Più o meno, meno più. Allora, questo qua devo TTT, perché c'era una rotola, qualcosa in pratica che c'era avanti, c'era aspettato. E l'avevo cambiato io. Nel gubù si abbiamo piano, ho segnato tutti i fili e me l'ho ripiazzato. Giusto, questo e quello era modificato anche nel PTT che si era rotto, già lo so. Beh, io l'ho cambiato. Adesso me lo faccio di tavola. Ah no. Ma chi su di Giulio era di tavola vero, il cazzo canterà dopo. Io l'ho visto, sembrava un Turner più 3. Beh, non so, già mi ricordo, l'avevo visto pure io, bello, fatto bene. Mira per davvero, pure se era di legno. Sì, beh, fatto proprio bene. Quando c'è i macchinari adatti per farlo, vabbè, poi bisogna saperlo fare. Non è che c'è i macchinari, bisogna saperlo fare. E infatti, Guido è un artista nel travaglio suo, chiaro grido. E poi ci vogliono i macchinari adatti per scavare, capito? Fare gli scavi, bene, la salute è perfetto. Poi ho fatto il tastino, il legno, va, fuori il gap. Tutto, cazzo, solo così non funzionava il suo microfono. Aveva preso il coso, il circuito mi sembra da un SBE che è piccolino, microscopico, è proprio il circuito. E lui, cazzo, è riuscito a farlo, sia il circuito, tutto. Funzionava benissimo. Il microfono di tavola. Sì, mi ricordo. Non so chi l'aveva dato. Ma io ne avevo costruito uno, ma lo sai come? Col flessibile di quello delle luci, mi sembra. Un flessibile a idratato. E avevo infilato i cavi della capsula. Guarda che era bello veramente quello che c'avevo io. Certo. L'avevo costruito io. Col flessibile che. Vabbè. Prima di un anni fa figo, già va Natale, io no. E oi. Adesso di MB+4 ne ho due. Uno quello vecchio che chissà quanti anni c'ha, e più quello nuovo di pacca che è dentro la scatola, ma manco a toglierlo. Mi sto usando l'M93 qua. Ho capito. Aggiungavite, vabbè. Non rimunicata. Rimuso e cosa? E quanti microfoni dei papi? Tanto per farmi sentire, sto usando questo M93 a Kidu, manca in mano, rubo i bigliacchi troppo minori. Eiaia. Allora, lasciamo, devo vestire. Barba fatta, doccia fatta. Devo solo vestire, non giurare. Quella è mandrunia, dicasi poltronite acuta. Sì, Satani, ho sistemato due tablet, ma di un esempio di usciuto. È un computer, la qua sta aggiornando. Cava. 10.000 euro. Dio di la bozia. Se non volevo dire chiudere la faccia. Di chi ti si attacca alla bobita? Allora, ui. Poveri noi, solite crocroi. Chissà perché siamo nati poveri. Allora, siamo nati poveri e poco uomani. Marcolino non si sta facendo più sentire. Morto in Libia. Chi? Marcolino Condo. Mi ha mandato un messaggio, se mi prestava la radio, provo a farla. Non mi ha risposto. 3.009 è il migliore di tutti, perché di quelli normali, capito? Invece i razzi sono tutti digitali. Oh, anche i digitali funzionano bene, però Gidi si può una cosa. Il 3.009 è quello vecchio, quello che ha i componenti normali, quello va bene. Cosa vuoi ti dica? Infatti sono lì un po' deciso. Vedi? di trimmer per regolare di quelli digitali da tutti, ma tanto microscopiche con la lente me l'ho dovuto guardare, trovare il cacciavite, perché il cacciavite antinduttivo era troppo grande. Vabbè, certo, ci vuole il cacciavite piccolino. E pure cosa ho messo la foto, pompone ce l'ho uguale alla tua, ce l'ho comprata uguale. E questa qui sì. Tu vuoi accostare cosa da adesso? E già lo so, ma io sto parlando di quelli digitali, di quegli altri. Si conferma. Cazzo, c'è il trimmer, chi non vuole bici, e poi sono a grossi. Non sono a taglio, capito? Vabbè, ma la chiede è piccolo, ma sempre belli di piccoli. Angelino, gabbie. E beh, mi compagna di Natalino. Saluta Angelino, non lo senti Natalino? Una futaccia, non lo sento. Salutalo. Sì, è ricambia. No, ma arriva la segnale 7, alla grande. Non aggancia, solo se cioè, non aggancia arriva basso. Vabbè, c'è anche l'antenna, non glielo permette. Comunque già l'ascolto bene, dai. Vabbè, finito hai. Angeli, finita con l'antenna. Anche qua ieri già stava tirando forte il vento, non solo lì, eh. Non so se mettermi la tuta o il jeans, sono indeciso. Lo so, già lo sento pure io, bassi bassi. Mi sento. Che bagaba. Questo va bene, riaprono i cosi. Barbieri, il 18. Cazzo, tutti i capelli messi male, mannaggia. Vabbè, anche una volta me l'ha fatta la 25, ma tutti musicati, anni fa. Poi la macchinetta ha smesso di tagliare, mi sono arrangiato con la lametta, poi mi l'ho fatta la lametta ai fianchi, no? C'ho una macchinetta nuova, non me la vuole tagliare. Non si immagina, sono la parrucchiere, non mai che ti fa bene. A Sassari, a TP, pochi bus e a numero chiuso. Ce ne sta facendo poco di casino, sto cavolo di cosa, di coronavirus. Comunque è arrivato anche a me questo numero, più 216, dalla Tunisia. Maledetti che... Cioè, te ne fregano 1,50 euro al secondo. Cioè, in un minuto te ne fregano 90 euro. Adesso inizia, infatti come attrezzati, perché quando arriva la propagazione, guarda che molte volte non riusciamo a parlare con Massimiliano, allucinante, mi comprimono da fuori. Che bella, allucinante, sono tutti pronti, Massa. Minchia. Quando si apre già si fanno sentire. anche come trasmissione. Un casino. Thank you. trovata quella mattina in un fornitore di Milano. E di averla consegnata quella sera a te, per farvi la curiosità. Perché hai entrato il caricatore? Perché? Sì. Per essere sicuro che non ci fossero dei proiettili. Protezione. Ciao. Ma vero? Vero. Provato un rosmetro piccolino, ma funziona bene. Un accordatore automatico per chitarra in campagna. Quindi io ho un telefono accordato della chitarra. Ma io c'ho quello che si mette sopra la cosa, sopra il manico della guitar, di quando c'avevo la Fender. Noi abbiamo spiegato nel telefono, ma l'accordo con quello. Se ce la fanno portare, non lo so, sto aspettando una risposta. Ah, ma non sei fisso a portarla? Sì, e beh, questo è il quarto anno che la porto. Nei candelieri ne conosci gente? Io sono molto amico di Enrico, di Zavorano, lo conosci? Enrico, a voi se lo conosco. Un mio fratello. Enrico Sini. Enrico Sini, sì. Noto Zavorano. Già lo conosco a Puglia, adesso prima era bello, lo portavano le persone grandi di età, no va. Ma cosa? Più spettacolo facevano. Vabbè, ma le generazioni cambiano, no? Ho capito, vabbè. Io essendo un ragazzino, loro erano a una certa età, no, però. Bella cosa, belle, io ho visto belle, come si dice, belle discese con persone anziane. Poi lui c'ha la moto, la Rideviso mi sa che c'hanno. Sì. Ma adesso qua non c'è più, è fuori che sta lavorando. Ah, fuori è. Ehi. Ah, con la moglie è partito. No, la moglie è qua, con la bambina. Ah, ma con l'autore si abita? No, la moglie abita di punti. Ah, ho capito. La borsea. Che vibra un bel, ma e adesso provo a prendere la spalla mancante. così però con la mancata amplification. Bella, ha costato un pacco di dinamica, una decente. Sì, c'avevo l'applicatore Marshall qua. Secondo me viso la zinza che se la pugnimi. Aveva un volume quell'amplificatore, cazzo. Che abbagliava, mi sa però è oggi i candelieri questa non scendono, sarà tosta, forse c'è una Natale. Anche qua la festa grande l'hanno spostata a ottobre. Purtroppo questa epidemia ha rotto le balle. Già ne usciamo piano piano. Carraio. Amici che sono a Sassarese, ne ho tanti. Provo ogni tanto, ma sono tanti anni che non la suono, ogni tanto la suono, e prima ero più bravino là. Sì, vabbè, io lo stesso, ma no, ti ripeto, non la so suonare. Io se non gli accordi da farti. A casa dei mercanti, deve sempre la grande festa, se c'è il maiale. Sotto la propagazione sotto di te. Volte sta fa anche a te questi spagnoli con il non so, vabbè, tra un po' quando aumenta un casino, parlare fra di noi. Vabbè, con l'altro non ci sono problemi, siamo vicini. Ogni giorno ti si fa il callo, poi ti fanno più male dopo. ok, beh certo, le dita con le corde già lo credo, già lo so se che fa così. Allora te ne mando una io per sola, dai. Mandi, mandi. Già mi senti? Sì, noi che mi coprono questi. Nel telefonino te la mando. Ah. Era Eric Marocchino. Luca, te l'ho mandata, apri il telefonino. Cos'è il giorno che stavi dicendo? Sì, ho arrivato adesso. Ok. Attento collega della Spagna, del Roger, se ascolti la Sardegna, Italia, Brecche. Attento l'amico Giulio, l'amico Giulio! Ciao Eugenio, io che chiamiamo lo spagnolo. Attento, attento compagnero, attento compagnero, dado un brindito se ascolti la Italia, cappa. Ma tuo fratello è Giulio? Sì, mio fratello quello, allora. No, però cosa fa, bravo, fa anche Masi. Sempre fa. È 20 anni che cantelli, anche di più. Ce lo conosco, noi come siamo di volte al parco. Come siamo tre volte al parco. Va sempre, infatti, prima aveva il gruppo ma poi l'ha montato perché non pagavano abbastanza. Per da 2 anni a cantare con un gruppo di 5 persone ha dati 200 euro, 250 euro, ma vai, con tutte le spese dell'attrezzatura, eccetera, viaggi che ci vogliono per il trasporto. Tanto, guarda, non mando più, adesso vado a cantare per sport, così, per divertirmi. Quando ci sono le feste, salgo sul palco e canto anch'io. E così è fatti. È più piccolo di te, sì. 10 anni? No, 10 no, ma quasi, dai. Penso che abbia una settantina di anni, non me lo ricordo. 60, forse, no, forse a 70 non ci arrivo ancora, no, a 70 non ci arrivo, 69, 68, non lo so. Sì, sì. Avanti, oggi. Giulio! Oggi, dimmi! Ma quello di ieri è il tuo numero, Sì. Allora, quello sì. Ma ha ricevuto dai su WhatsApp adesso, mi sono mandato una canzone a sassarese. Ma tu sei quello lì, perché? No, è un altro numero. No, è sempre lo stesso numero. È sempre lo stesso numero. Mio fratello quello, lo sono io. Ah, tuo fratello. Ok, mio fratello che canta, è da 20 anni che canta, anche di più di 20 anni, forse 23, 25, boh. Perché non me l'ho memorizzato, però... Vabbè, quello chi sei, tu me l'hai mandato il messaggio chi sei. Sì, ma non sei il numero di ieri. Il numero già lo sai, quello di ieri, tu prendi quello di ieri e il numero è quello, non ci sono problemi, perlomeno per il WhatsApp. Oh, anche l'altro, va bene, ho anche un altro, ma prendi quello, tutti dinni. Quale? Quello di ieri? Quello di ieri, che è poi lo uguale a quello di oggi, perché è lo stesso telefono. No, sto numero di più. Come inizia quello? Guarda che il numero inizia con 388. Così è lì. Allora finisce 699 quello di ieri e questo qua no. No, quello di ieri non poteva essere 399. Quello di ieri era 388 l'inizio. Esatto. Allora quello di oggi com'è? 348. Esatto, vedi sono 2 milioni di diversi. Perché ne ho 2, dai, è lo stesso. Tu fai uno o l'altro è lo stesso, non c'è problema. Ah, ok. Perché ho il telefono con la doppia scheda, capito? E per quello è. Ho il telefono. sono con la doppia scheda, sicché o uno o l'altro va sempre bene, tanto riceve sempre lo stesso telefono. Va bene. Ok. Attento compagno della Spagna, si ascolti d'Italia, KK. Attento compagno Ballarecci, non intendi, Davadivi. Le canzoni sertanesi? Aspetta che sto ascoltando tuo fratello. Ah, ehi, vabbè. Ma fa anche serate? Sì, anche quello. Prima aveva anche il gruppo, ma poi l'ha sconciato perché quelli dei locali, gli esercenti, non vanno di là a pagare. E allora dice no, per una miseria non ci vengo, perché io non sono così alla fame. Perché aveva un gruppo con 5 persone, per cui ti puoi immaginare. E allora ha fatto boh, allora mi conto il gruppo e non se ne parla più. E vado a cantare quando ci sono le feste, vado anch'io nelle feste e canto lo stesso e mi diverto, oppure nei locali tipo che so io, Bandiera Gialla, questi locali così dove c'ho pizzeria eccetera, no? Capito? E si diverte così, per cui va bene, va bene. Si assomiglia a Galleri. Si conoscono bene con Galleri, a voglia se si conoscono. Vabbè, mi stavi dicendo? Stavo dicendo, ti piacciono perché le canzoni sertanesi a te? Sì, a voglia. A voglia, mi piacerebbe riuscire a suonare con la chitarra, ma non ancora. Non sono ancora riuscito a farne una. Ah, intanto se non hai le parole cosa fai? Capita, non è che te la puoi scrivere nessuno la canzone. O perlomeno se te la scrivi bisogna anche saperla comporre, no? È chiaro, è ovvio. Va bene, dai. Purtroppo è così. No, a me piacciono, la verità, mi piacciono molto anche. La nostra cultura bisogna portarla avanti. E allora, io Luca. Oh, dimmi. Dai, tu esci con gente che suona sassanese, così? Io ho tanti amici, tanti gruppi che conosco, cioè li conosco. Fa voglia. Io esco con lui, si chiama Alessio. Non so se ti suona. Alessio? Alessio? Alessio Pinna. Alessio Pinna, Alessio Pinna. Ma è il figlio di Claudio Pinna? No. Figlio di Claudio, no. Non lo so il padre. Penso che sia morto, non lo so. Alessio Pinna, dove abita questo Alessio? Allora, Alessio abita. Non lo so, non me lo ricordo. Dopo lì ti cazzate. C'è un fratello che è macellaio, Gianni, che abita la Teloce. Non lo so, ma lo conosco, non lo so. E ci ha suonato anche con Giovannino Giordo. Mio fratello le canta le canzoni di Giovannino Giordo, a tutte le basi, perché erano molto amici con Giovannino, erano. E dunque lui a tutte le basi ce li ha della musica di Giovannino e adesso le canta lui tantissime volte. E sicuramente tuo fratello conosce il tuo mio amico. Ma conosce tutti se per quello, non solamente i cantanti sassanesi, ma anche cantanti di fuori. E a Puglia, tipo gente come Paolo Bello, tanto per fare un nome a caso, e sono tanti altri che ce ne sono, di Calvenda pure ne parliamo, tutti li conosci, tutti indistintamente. Ma suona anche la chitarra, la tuo fratello? Diciamo che la strimpella, non è che la suona proprio, la strimpella, cioè, lui canta e basta, poi aveva i musicisti con lui nella sua, nel suo gruppo, però diciamo che la strimpella un pochino, là. Poi c'è l'altro mio fratello che scrive le canzoni, capito? Oggi, per scrivere le canzoni, l'altro mio fratello. Ho capito. Tu zero, tu niente. Ti sei dato Alfa, la Fragna, Emilia, uscire. Ah, io sono suonato, dunque no, niente da fare. Mi piace ascoltare, però sono suonato. Se canto io, chiudi. Non si sa mai, è meglio, siccome stiamo andando incontro all'estate, è meglio che non piova. Giulio, ma non hai mai pensato a costruire una chitarra? Cosa hai detto, Luca? Ho detto, non hai mai pensato a costruire una chitarra? No, io no. Io mi tagliavo tutti i pezzi a un chitarrista che c'era, che era un maestro di musica, un certo Marruso, che abitava vicino alla falegnameria, veniva da me, gli preparavo tutti i pezzi e poi lui li assemblava le chitarre. No, ma c'è mio fratello che le costruisce le chitarre, ma le chitarre come si deve, però no giocattoli, no. Vere chitarre che costano un bel denaro, infatti su ordinazione le fa e le vende. Ne ha fatto anche per i Bersa, per il coro, per i Tazenda, ne ha fatto, insomma, un po' per tutti. Ah, ho capito, se la chitarra è fatta bene. Sì. Non so, poi conosci oggi i Santa Fe, quelli